Io rimasi colpito alla manifestazione della GKR, la prima, quella dei 50.000, perché lo spezzone dei lavoratori della logistica era aperto da un grande bancherone dove c'era scritto 8x5. Io andai a chiedere appunto ai compagni che erano alla testa di quello spezzone cosa significasse quelle 8x5, ed era le 40 ore, cioè a 50 anni di distanza dal risultato storico delle 40 ore su 5 giorni settimanali, che aveva la stessa valenza delle 8 ore del 1900, dei primi del 1900, 50 anni dopo, in un settore produttivo come quello della logistica, le 40 ore erano un obiettivo d'avanguardia, perché comunque la condizione lavorativa della maggior parte di quei lavoratori di 10-12 ore al giorno per una quantità di giorni non mai definita. Ecco, allora questo tema del super sfruttamento, del fatto che è il padrone che determina oggi in alcuni settori produttivi il tempo di lavoro, le modalità del lavoro e anche il reddito, è un tema centrale, è un tema che va discusso, anche perché paradossalmente siamo arrivati a una situazione per cui è aumentato il numero delle ore lavorate. Un tempo si discuteva, quando si parlava di riduzione d'orario, se era giusto riduzione d'orario a parità di salario. Questo era un tema che veniva molto affrontato nelle assemblee, nei dibattiti e quant'altro. Oggi siamo nella condizione per cui si lavora molto di più. C'è un dato dell'Eurostat di alcune settimane fa che dice che in Italia ci sono 2 milioni di persone che lavorano più di 50 ore a settimana, e il reddito di questi lavoratori è un reddito nettamente inferiore ai redditi medi normali di un lavoratore dipendente. Siamo sugli 850-900 euro al mese. Quindi si è aumentato il numero delle ore di lavoro e è diminuito il reddito dei lavoratori. Cioè, in un periodo in cui ci sarebbero le condizioni forse di lavorare 4-5 ore al giorno per 3-4 giorni a settimana, invece in alcuni settori siamo in questa condizione. Il libro di Francesca affronta il super sfruttamento in questi settori, che sono i settori della ristorazione, della grande distribuzione, dove appunto non è chiaro quale sia il tempo che i lavoratori devono impiegare nel loro percorso lavorativo durante la settimana, perché molto spesso questi lavoratori e queste lavoratrici sono assunti con contratti a part-time, quindi è un obbligo il lavoro a part-time, poi dopo questo lavoro a part-time aumenta, ma molto spesso non viene pagato, gli straordinari non vengono pagati, e quindi in una situazione di alta precarietà. E quindi diventa anche abbastanza evidente che questo fenomeno delle grandi dimissioni, che in gran parte, insomma, nel nostro paese riguarda per esempio settori come quelli di cui parlavo prima, abbia delle ragioni oggettive. Già uno slogan, una parola, no, non era una parola d'ordine, era un dato di fatto, insomma, degli anni 70, che siamo costretti a lavorare per vivere, questo tipo di situazione veniva ampiamente criticata. Oggi siamo molto indietro rispetto anche a questa situazione. Oggi in tanti casi le persone sono costrette a lavorare per poter lavorare, perché già il fatto di lavorare da parte di comanda è una questione di privilegio, quindi viene gestita in questo modo. Io voglio cominciare, poi dopo do la parola a Francesca, leggendo un breve editoriale, insomma era un pezzo editoriale del giornale La Classe del 7 giugno 1969, e diceva: 30 anni dentro, in fabbrica, non in galera. Il destino che i padroni pianificano fino in fondo, ieri come oggi, è stato lungo questo dopoguerra, 25 anni in cui i padroni hanno fatto cadere dall'alto ogni singolo posto di lavoro. La fuga di milioni di contadini italiani dal lavoro senza orario, dalle campagne, è stato il supporto fondamentale di questo sviluppo del capitalismo italiano dell'ultimo 25 anni. Sono riusciti a dare lavoro e a inventare il modo di presentare il lavoro come un premio. E chi dà il premio è sempre il padrone. È vero che per arrivare al rifiuto del lavoro occorre prima passare per il suo posto, ma questa è la situazione che appunto veniva descritta. Leggendo un pezzettino, insomma, delle prime pagine del libro di Francesca, il riferimento non sono più i lavoratori che vanno in campagna, ma la classe precaria, ma il taglio che lei dà nelle sue riflessioni è molto simile a questo. Francesca scrive a pagina 41 del suo libro: la fuga dal lavoro produttivo sottesa alle grandi dimissioni è una forma di sciopero che non implica un processo rivendicativo e una contrattazione, segna il rifiuto del lavoro come destino e la presa di distanza dalle aspettative sociali. È andato in frantumi il lavoro che per anni è stato presentato come forma di emancipazione e gratificazione. Quindi vedete che è un approccio, diciamo, di ragionamento che in qualche modo subisce l'influenza anche di quell'articolo della classe. La differenza sostanziale, insomma, di quel percorso dei primi anni 70 rispetto ad oggi, quella secondo me che nel libro emerge con più evidenza, è il fatto che negli anni 70 il percorso che portava a sostenere la necessità di liberarsi dal lavoro salariato era, diciamo così, costruita attraverso momenti di lotta organizzati che utilizzavano la fabbrica come elemento centrale dell'organizzazione. Quindi la lotta contro il cottimo, la lotta di fine anni 60, primi anni 70 contro il cottimo, che era uno strumento di divisione dei lavoratori, uno strumento che sanciva lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici dentro le fabbriche. Poi la lotta per gli aumenti quelli per tutti, la lotta per la riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore, che erano elementi che portavano a questo percorso. Le grandi dimissioni, così come sono descritte nel libro di Francesca, rappresentano una grande forma di sottrazione a una situazione di supersfruttamento che tante persone vivono. E quindi questa è la differenza di fondo. Qualche settimana fa, al Festival di Deriva Prodi, diversi pensatori, insomma, di area operaista, a partire appunto dal libro di Francesca, si ponevano la domanda come queste situazioni sociali determinate da questi fenomeni possono produrre poi dei momenti di lotta collettiva, perché questo è un passaggio non ancora dato. Allora, un pensatore, libero pensatore come Bifo, l'affronta in maniera molto semplice, dice che questo è una delle tante forme di diserzione e quindi diciamo, le inserisce dentro questo ragionamento che sta sviluppando ultimamente. Altri stanno in qualche modo pensando a come questi fenomeni sociali potranno diventare in un prossimo futuro degli elementi positivi, insomma, perché il problema di fondo è che occorre trovare una modalità per cui queste situazioni di supersfruttamento debbono essere limitate, debbono cambiare, debbono cessare e non possono continuare a riprodursi in eterno. E quindi io partirei appunto da questo tipo di osservazione, di ultima osservazione che facevo, per dare la parola a Francesca, che ci parla un po' del suo libro e nel corso appunto di questo lavoro molto interessante, molto importante che ha realizzato, si è trovato di fronte probabilmente a questi ragionamenti e come ha pensato di affrontarli. Allora, grazie Valerio, grazie a tutti e tutti per essere qui, grazie per questo splendido pezzo introduttivo, grazie a Bea e Gianluca. Sono un po' emozionata perché comunque io al VAC mi sento a casa e un po' mi sembra anche il contesto giusto per parlare di questo testo, che quando si parla di grandi dimissioni ci sono tre reazioni. C'è la destra, che ovviamente storce il naso, ma quello non ci interessa. C'è anche un pochino di diffidenza, diciamo, da chi lavora giustamente sui temi dell'organizzazione delle lotte, e poi c'è chi ama il rifiuto del lavoro e quindi ci va un pochino a notte. Io ho provato a stare in mezzo a tutte e tre, che non è una posizione particolarmente comoda, però magari dico che operazione stavo provando a fare quando Ho pensato che magari questo era un testo che valeva la pena scrivere. Io ho iniziato a scrivere un sacco di cose nella mia vita, non ne ho finita quasi nessuna. E però questo, come dire, ce l'avevo un po' nel cuore. Ce l'avevo un po' nel cuore perché molti di noi cresciuti nell'epoca del riflusso, e qui mi leggo all'introduzione che ha fatto Valerio, che è un'introduzione perfetta perché ci mostra già in che epoca siamo. Molte di noi cresciute nell'epoca del riflusso hanno fatto fatica, nel senso è difficile lavorare, cioè è difficile, spesso incubo lavorare. E però questo incubo del lavoro viene portato avanti anche negli ultimi 20 anni, insomma, in un contesto completamente diverso rispetto a quello degli anni 70, in un contesto in cui io sono cresciuta sentendomi dire che comunque il lavoro è una fonte di emancipazione, ma anche bombardati un po' da qualunque cosa, film, la qualunque, che il lavoro emancipa le donne, emancipa. E poi in realtà una si trova nel contesto del lavoro e ne esce spesso deperito, stanco, infelice, insoddisfatto. E quindi un pochino questo è l'esito anche di un periodo in cui quando abbiamo guardato anche a cosa è successo nel mondo del lavoro negli ultimi 20 anni, usciamo da un decennio, quello precedente, in cui comunque le forme di medicalizzazione del lavoro sono state pervasive, diffuse, capillari, tutti ci siamo medicati come potevamo per resistere in dei posti di lavoro che non danno, sicuramente non hanno mantenuto la promessa rispetto a tutta questa grande narrazione, e nelle quali è difficile appunto anche tornare il giorno dopo. Quindi forme di medicalizzazione che mi ricordo trasversali a tutti gli ambiti, perché mi ricordo inchieste dai call center in poi, di farmacie che sono cresciute accanto proprio alle postazioni lavorative per dimenticare, per andare avanti il giorno dopo, perché comunque il lavoro è indispensabile, perché è l'unica forma di reddito a cui possiamo accedere in un paese come l'Italia, e perché appunto dobbiamo sempre farlo per lei, farlo per la famiglia, farlo per noi stessi, farlo per la qualunque. A me sembrava che alla fine la pandemia questa grande promessa l'avesse disintegrata, o comunque che l'avesse un pochino fatta esplodere, messa in discussione. Dico, a me sembrava, perché poi quando è uscito questo tema delle grandi dimissioni, e ancora oggi, quello che leggiamo è soprattutto diffidenza, perché il dibattito si divide da un lato appunto con i ceti imprenditoriali, non so se avete sentito, ma penso di sì, Briatore l'altro giorno diceva il lavoro povero non esiste, sono persone pagate, attori pagati per dire che sono pagati 200-300 euro al mese, ma non esistono. E alla fine quello che abbiamo sentito è che le grandi dimissioni non esistono, oppure sono l'esito di giovani generazioni colte da un istinto di ribellione che dura un secondo perché poi si pentono, ora c'è il grande pentimento. E in tutto questo però la parola chi lavora non è quasi mai stata data. In Italia c'è la guerra dei numeri, ma non c'è un dibattito su come si lavora, e come si lavora è si lavora male. E potremmo ripercorrere gli ultimi 30 anni capillarmente e guardare cosa è successo, però insomma part-time involontari, lavoro in nero, lavoratrici e lavoratori autonomi, perché parliamo di lavoro dipendente per le dimissioni, però di fatto c'è una polverizzazione delle condizioni di lavoro, nello stesso luogo di lavoro non ci si parla perché ognuno ha un contratto diverso, insomma c'è una solitudine, però in questa solitudine c'è anche una forma di resistenza che è planetaria, perché alla fine, dopo la pandemia, questo processo di rifiuto, se lo tracciamo, se lo mappiamo, è un po' dappertutto. Quindi io volevo provare a partire da lì e volevo provare a, come dire, toccare due questioni che mi stavano particolarmente a cuore. La prima è che veniva spesso detto lascia chi se lo può permettere. E questa è un po' una bugia, nel senso, sì certo, ha sempre lasciato chi se lo può permettere, chi se lo può permettere lascia, questa non è una novità. La novità è che lascia chi non se lo può permettere, perché anche quei lavori pagati di merda alla fine richiedono così tanti sacrifici che messi sul piatto della bilancia, quei 2, 3, 4, 5, 600 euro al mese, che non sono un'eccezione ma sono in tanti casi la norma, fanno sì che non ne valga più la pena, perché la contropartita è troppo poca. E quindi da un lato c'è questo fatto che la contropartita è troppo bassa, dall'altro c'è che veniamo comunque da 30 anni di pratiche violentemente antisindacali in tutti i luoghi di lavoro, di criminalizzazione dei sindacati di base, di criminalizzazione delle forme di dissenso, e questo ha un po' anche portato a quello che dicevamo prima, cioè una medicalizzazione del rifiuto, a dire no ma sono io che sbaglio, sono io che dovrei fare di più. E però in tutto questo fare di più, come diceva Valerio prima, le ore di lavoro si sono estese, si lavora sempre, si lavora la sera, si lavora nel weekend, si lavora nei mesi estivi. La stampa ci dice che adesso le nuove generazioni, che poi non è vero che sono le nuove generazioni, negli Stati Uniti sono gli over 50 che si dimettono, anzitutto anche perché hanno qualcosa da cui dimettersi, molto spesso le persone non hanno neanche niente da cui dimettersi oggi, però appunto non sono solo le nuove generazioni, e in generale... dire no, è stato reso così difficile che ci troviamo a lavorare sempre, quindi non è che adesso diamo un valore diverso al tempo libero, è che il tempo libero banalmente non esiste più. E quindi in questo testo, e poi passo la parola a Bea e Gianluca, proviamo magari a fare un dibattito, io volevo fosse un libro divertente a modo suo, è tragico, è tragico, ma io volevo fosse divertente, perché comunque ci sono voci di ribellione che nel totale isolamento dicono cose tipo per 50 anni ci avete detto che siamo fortunati ad avere un lavoro, adesso i datori di lavoro dovranno ritenersi fortunati se noi accettiamo di lavorare per loro. Ci sono tutti capovolgimenti così che secondo me sono di ispirazione adesso, non sono risolutivi. Io non dico mai che le dimissioni sono una soluzione, sono un sintomo di un malessere che però viviamo tutti, e in un contesto appunto di doppio fallimento in cui l'organizzazione del lavoro è fallita, però le aziende falliscono anche nel disciplinare il lavoro, e quindi sono un punto da cui partire in quest'epoca di policrisi. Almeno è, volevo, come dire, fermare nel tempo il fatto che a molti e a molte di noi così bene non ci va. E quindi questo è un punto da cui ripartire, come poi lo dobbiamo capire insieme. Grazie. Grazie Francesca, grazie Valerio, grazie a tutte e tutti per essere qui. Non è un libro divertente, nel senso, cioè, te lo dico, ma il secondo capitolo, quello in cui si intitola il tempo di respirare, quello dedicato alla sanità, lo stavo commentando con delle altre persone, dicevo il respiro me lo sta togliendo a me. Orari, non mi sono presentato, vabbè, lo faccio dopo. Orari appunto straordinari non retribuiti, parlo del settore sanitario e parlo del periodo Covid, ovviamente. Quindi straordinari non retribuiti. La paura, il confronto con la morte, la paura di contagiare colleghi e colleghe che nel frattempo si ammalano, muoiono, i vaccini non ci stanno, le mascherine non ci stanno, un altro che è divertente, io quel pezzo lì me lo stavo, cioè, l'ho letto a fatica. Io mi chiamo Gianluca De Angelis, lavoro all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, è un istituto di ricerca che fa riferimento alla CGIL, e mi occupo spesso anche per la Fondazione di Vittorio, uguale come sopra, di benessere psicosociale sul lavoro, e quindi quegli aspetti là appunto mi toccano, sì, toccano corde molto particolari, mi occupo di numeri spesso non di persone, perché non ce la farei altrimenti, molto probabilmente. E vi ringraziamo non soltanto per l'occasione, diciamo, di stare qui con voi, ma anche perché penso sinceramente, come avevo anche scritto nell'email, che di questo tipo di dibattito, a prescindere da quello che posso dire io, penso ci sia un bisogno terribile. Proprio per quello che dici tu prima, cioè che a un certo punto si è iniziato a parlare di grandi dimissioni e quel tema lì si è incastrato in quel discorso, o che se andava bene finiva col dire pagateli di più, Se invece andava male, come poi spesso succede, si incastrava su quell'approccio un po' moraleggiante al devi lavorare per forza, perché se sei povero ovviamente non hai il diritto di sceglierti una vita migliore, un salario migliore e così via. Ed era un discorso che secondo me, che mi occupavo appunto, mi occupo di, spesso anche di statistiche, stava banalizzando quello che è, come dici tu, un sintomo, un indicatore potente, che è quello della dimissione, ma che è quello anche delle persone che mentre lavorano cercano un altro lavoro, che ad esempio l'Istat è una cosa che calcola, che da tanti anni è in crescita e che però uno di quegli indicatori, diciamo, un po' di serie B, cioè non riguarda nessuno, però effettivamente lì c'è un malessere grosso. E per questo un po' mi scocciava, quando si iniziava a parlarne un po' di più, perché effettivamente dicevo, ok, non è vero che la gente non ha bisogno di un lavoro, lo dici tu e tu nel libro lo dici benissimo, ha bisogno di un lavoro migliore. Non è vero che si dimettono soltanto quelli che possono permetterselo, ma si dimettono tutti, però con esiti molto diversi. Io mi sono occupato di dimissioni soprattutto nel lavoro, nella care economy, facciamo così, quindi tutto quello che va dal sanitario al sociosanitario, all'educazione, alla formazione. E tra i dati più interessanti, quello che vedevo era che tra il 2019 e il 2021 le persone che uscivano, di cui aumentavano insomma le uscite e poi si ricollocavano nel lavoro dipendente, chi si ricollocava meno erano i sanitari e colf e badanti, con un tasso di rientro insomma di poco superiore al 50%, mentre invece magari chi usciva dalla scuola si ricollocava nell'arco di un paio d'anni col 70%, 68%, quindi insomma e quella dicotomia iniziale, cioè chi esce dalla sanità con qualifiche elevate, probabilmente con età più elevate, con qualifiche che magari ti permettono anche un accesso, un approdo al professionismo, magari semplicemente di aspettare la pensione, tanto c'è un TFR che fa paura, dall'altra parte hai invece chi esce dalla collaborazione familiare e probabilmente scompare dalla traccia perché finisce lavoro in nero, finisce magari a fare lavoro di cura non retribuito e così via. Quindi questo, il tema delle dimissioni a me spaventa molto, proprio perché è un qualcosa che ha a che fare nettamente con la diseguaglianza, perché è individualizzato, e quello a me spaventa, fa paura. Mi fa paura perché il tema del rifiuto del lavoro, cosa che peraltro io anche non capivo bene perché si continuasse a parlare di grandi dimissioni, o meglio, no, lo capivo, perché poi leggendo le cose che scrivevi lo capivo benissimo, cioè facevi riferimento all'analisi, diciamo, che si stava svolgendo, a quei commenti, ecco, che venivano da oltreoceano. Però guardando i numeri, io dicevo, vabbè, ma qui grandi dimissioni non ce ne sono, nel senso che, giusto così, per dare un altro numero, se prendiamo la care economy in tutta Italia, parliamo nel 2021 di 4 milioni circa, 3 milioni e 900 mila persone più o meno, con meno di 200 mila dimissioni in quello stesso anno. Sono due cose diverse, sono dati diversi, quindi non si può fare percentuale, insomma, però ecco, quella lì è l'unità di misura. In Emilia Romagna parliamo di 88 mila dimissionari e dimissionarie su 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici dipendenti. Quindi insomma è una misura che non mi faceva pensare a, oddio, grande dimissione. Anzi, la metto così, secondo me è importante proprio ribaltare la questione. Sono troppo poche queste dimissioni. Sono troppo poche. Uno, perché non è statisticabile tutta la parte del lavoro in nero, c'è tutto il lavoro in nero per tutti i stacchi, non è che qualcuno sta lì a prendere la comunicazione obbligatoria di cessazione di rapporto di lavoro. E poi sono troppo poche rispetto al fatto che il malessere, che io vedo spesso con i numeri, però quando parlo pure con delle persone ogni tanto, e il malessere c'è, è forte, e dimettersi in Italia è una cosa difficile, non soltanto perché è un aspetto morale, che comunque sia, come faccio a mio padre che mi dimetto e lascio il lavoro a tempo indeterminato, pure se prendo 600 euro al mese, però se ti dimetti poi non c'è accesso a nessun tipo di forma. Questa è una roba molto diversa dagli Stati Uniti, molto diversa da in Francia, in Europa funziona più o meno così, cioè se ti rimetti ti puniscono, ok? Anche se tu hai contribuito, hai una condotta tale che non ti permette di accedere ai diritti per i quali, penso io, tu hai già in qualche modo contribuito. Il tema del rifiuto del lavoro poi, mi avvicino pure a chiudere, il tema del rifiuto del lavoro poi secondo me funziona poco, perché se state guardando i numeri, il 60% delle persone che si dimettono tra il 2019 e il 2021 si ricollocano, anzi, il 25% di chi si è dimesso in 3 anni già aveva un secondo lavoro. 50% si è ricollocato entro un mese. E quindi dicevo, il rifiuto del lavoro, forse appunto c'è bisogno di un lavoro migliore. E parlare di rifiuto del lavoro, e colgo anche l'occasione della mostra che Valerio ha organizzato fuori della canzone, mi fa venire in mente un altro rischio, che quelle lotte lì, quelle vertenze lì, per certi versi rimangono un po' nelle foto storiche, no, che vediamo, in cui si contestava, no, la subordinazione. Era un altro periodo, ok, no? In quel periodo c'era, vabbè, niente, sto prendendo un'altra tangente, si contestava la subordinazione, tutti gli istituti collettivi e sociali che erano, diciamo, riconducibili a quello che era la società salariale, no? Per la regione della Castella. Quindi c'è stato un momento di forte contestazione, quelle contestazioni sono rimaste lì fino a quando il capitalismo non si è dato gli strumenti per poterle mettere a valore, la critica artistica, no? di Boltanski. Appena è riuscito a trovare il modo di sfruttare quella roba lì, la subordinazione ha iniziato a fare schifo pure al capitalismo. Hanno iniziato a dirci che è meglio il lavoro autonomo, che il lavoro a vouchers è fighissimo perché tu sei libero, è libera, no? In realtà si stavano liberando i padroni dalla responsabilità delle persone, dei dipendenti che appunto non servivano più. E io ho paura, ho una maledetta paura che il tema, maledetta paura adesso, però c'è la questione che se il tema delle dimissioni viene sussunto dalle imprese, in qualche modo, è già qui la cosa, la vediamo, perché tu stessa fai riferimento ad Amazon, io penso pure alle imprese della gig economy, imprese che della fedeltà del lavoratore e della lavoratrice non gliene frega niente, quelle sono imprese che anzi vogliono che la gente, piuttosto che star lì a farsi il culo per migliorare il posto di lavoro, se ne vadano. E c'ho paura di questo, ho paura che quello che è un indicatore, quello che è un sentire collettivo, che potrebbe essere diventare collettivo, se riusciamo a dargli quel senso lì, finisca per essere soltanto un pezzo di delle tante, diciamo, dimensioni che incrementano la diseguaglianza si potrà anche parlare ovviamente dei tassi di rientro diversi tra chi nasce in Italia e chi nasce da fuori, cioè, sì, e chi, diciamo, nasce fuori dall'Italia, maschi, femmine, qualifiche alte e basse, scolarizzate, no, quello di cui ho veramente paura, cioè che si perda l'occasione di appunto, di un miglioramento che sia veramente collettivo. Il tema del collettivo, chiudo, il tema del collettivo mi viene in mente anche quando leggevo anche il resto del libro, se no sembra così che ho letto soltanto il titolo e il sottotitolo, grande dimissione, il libro del lavoro, e poi adesso vado a fare il mio intervento e dico che non sono d'accordo. No, invece è che sono d'accordo con quasi tutto quello che tu hai scritto, quindi poi in realtà dicevo adesso come facciamo a fare un dibattito in cui io vado magari anche ad aggiungere qualcosa, e quello aggiungere, insomma, quel contrappunto che volevo un po' costruire un po' sul tema poi del collettivo che sparisce, perché anche nelle metafore che tu utilizzi, no? Tutto lo sciopero non dichiarato, mi lasciava un po' perplesso, non soltanto perché c'era la parola sciopero, quindi ho pinto di la sciopero, no, perché mi sembrava più che altro un grido, cioè una risposta disorganizzata, non si sa di chi può, non è uno sciopero, lì cioè, si sa di chi può, soltanto chi può si salva alla fine, quindi quello lì è un rischio grosso, anche le metafore che tu utilizzi, quello della famiglia, la coppia, il rapporto di coppia tra dipendente è uguale, sia maschile che femminile, quindi tra dipendenti e datore di lavoro, e invece è molto lontano da quella che è la mia visione del lavoro, che forse non c'è nella realtà, non si capisce manco perché ce l'ho probabilmente questa visione del lavoro, quel datore di lavoro non è un padre, padrone, oddio, come compare, no, nelle interviste, è piuttosto un tramite organizzativo, il lavoro deve servire a noi, a tutti, non soltanto a prendere profitti. E sta roba qui secondo me serve per ribaltare proprio il discorso sul lavoro. Noi paghiamo tanto lavori che non servono a una minchia, se non a fare dei profitti maggiori per i privati, mentre invece paghiamo niente lavori che sono indispensabili per noi. Io vorrei che ogni lavoro diventasse indispensabile e che di ogni lavoro venisse messo al centro la cura, mi viene da dire. Ciò che valorizza l'interdipendenza tra le persone e la sostenibilità ambientale. Grazie a tutti. Allora, grazie Gianluca, perché insomma, sento già il fervore del dibattito già qua tra di noi, e questo è molto interessante. E io vorrei, diciamo, dire che ci sono almeno due modi per leggere questo libro, almeno due. Allora, il primo è quello della risonanza, nel senso che il libro di Francesca entra nella dimensione soggettiva di questa esperienza delle piccole, grandi dimissioni, rifiuto o parziale rifiuto, sciopero o non sciopero del lavoro che lei racconta, che lei raccoglie e che a loro volta appunto risuonano con esperienze. Il libro si concentra molto, diciamo, sulle esperienze delle lavoratrici e dei lavoratori in Italia, ma è collegato appunto ad una situazione globale, quantomeno, diciamo, nel nord del mondo. Però rispetto a questa questione del rifiuto del lavoro, io quello che ho visto dentro il libro e dentro queste esperienze è che è una forma particolare di rifiuto del lavoro, è che si è specificato probabilmente dagli anni 70 ad oggi nei mutamenti, nelle trasformazioni del lavoro, della soggettività anche dei lavoratori e delle lavoratrici, che è il rifiuto del lavoro per amore. Penso che qua dentro queste storie appunto siano delle storie di rifiuto del lavoro per amore. Ed effettivamente non è che è un'invenzione, no? Cioè effettivamente la letteratura sulle risorse umane, ma non solo la letteratura, ci sono appunto tante prassi quotidiane nell'organizzazione del lavoro che sono piene zeppe di questa analogia. Perché non è solo una metafora questa idea del posto di lavoro come una famiglia, questa idea appunto del lavoro come passione, come realizzazione di sé, del matrimonio addirittura. Francesca fa un esempio in questo senso all'interno del libro, e che appunto rappresentano, concretizzano, danno corpo a questa questione dell'etica del lavoro d'amore. E questa idea appunto del lavoro come passione, o peggio appunto ancora come missione, che è un'idea che molte di noi poi sperimentano soprattutto nel lavoro sociale, in particolare nel lavoro nell'ambito, diciamo, della salute e della sanità, è proprio l'ideologia che consente la deregolamentazione del lavoro, che come dice Francesca appunto erode poi il potere della contrattazione, il lavoro sindacale, diciamo. Da questo punto di vista, per chi, diciamo, come me anche ha osservato la storia del lavoro, delle trasformazioni del lavoro dal lato del lavoro domestico, dal lato del lavoro di cura, gratuito, retribuito che sia, e quindi diciamo anche l'evoluzione di come è stato organizzato socialmente il lavoro di riproduzione, diciamo che questo tipo di dispositivo di addomesticamento della forza lavoro non è nuovo, no? È insito proprio anche nella critica che diciamo le femministe fanno da circa 50 anni, ormai il tempo passa, sono cose che diciamo da tanto tempo, non so più quanti decenni sono passati. E quindi questa faccenda del lavoro per amore non risulta nuova, come non risultano nuove le aspettative, ruoli sociali di genere che schiacciano, no, le lavoratrici, di cui Francesca parla nel suo libro, così come non risulta nuova la questione della violenza, perché in molte delle storie che vengono raccontate nel libro noi possiamo toccare con mano la violenza, no? Quei rituali di umiliazione che Francesca cita, citando Ehrenreich, sono delle forme di violenza. Ci sono forme di violenza sessista, forme di violenza razzista che attraversano questi luoghi di lavoro. Però quello che invece è nuovo, che mi sembra nuovo, è constatare appunto quanto queste caratteristiche, che sono appunto questo orario di lavoro illimitato, delle mansioni che non riesci bene a definire, la disponibilità, la richiesta di abnegazione, la richiesta appunto addirittura di prevedere i bisogni del capo, del datore di lavoro, prevederli e assolverli ancora prima che ti venga chiesto, no? Che è una caratteristica tipica anche del rapporto spesso asimmetrico che si instaura nel lavoro di cura in senso stretto. Queste caratteristiche, appunto, che sono storicamente quelle del lavoro domestico, del lavoro di cura, in particolare quello non retribuito svolto dalle donne nelle famiglie, si è esteso a tutto il lavoro, no? È successo il contrario di quello che le femministe della differenza dicevano a un certo punto negli anni 80, degli anni 80, negli anni 80, con un documento sottosopra rosso, mi pare, che si chiamasse, in cui auspicavano, no? Erano grandi fautrici, sono tuttora, penso, non lo so. Fortunatamente non si esprimono più sul tema del lavoro, ma comunque io non le ascolto, diciamo, forse non le vado a leggere queste cose, però loro sostenevano che l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, oltre ad essere una fonte di emancipazione per le donne stesse, al contrario di quello che dicevano le femministe invece marxiste di Wages for Housework, del movimento per il salario al lavoro domestico, Maria Rosa Dalla Posta diceva che la schiavitù, che non si esce dalla schiavitù, non ci si libera dalla schiavitù del lavandino attraverso la schiavitù della catena di montaggio, no? Poi le cose sono andate ancora più avanti, però appunto il femminismo della differenza italiano sosteneva che l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro così cariche di competenze relazionali, competenze affettive, di capacità di cooperare, eccetera, eccetera, sarebbero riuscite a trasformare il lavoro, no? E invece è successo il contrario, cioè il lavoro, Nancy Fraser definisce questa fase appunto di capitalismo cannibale, che è estremamente ingordo di cura, si mangia proprio la cura, ed è effettivamente quello che è successo, no? Quindi noi ci ritroviamo anche in una situazione paradossale, per cui quando diciamo invochiamo la centralità della cura, della quale io sono assolutamente convinta che la cura debba essere al centro dei nostri discorsi, in particolare delle politiche pubbliche, però non sappiamo più di quale cura stiamo parlando, no? Ci capita spesso questa faccenda che ci tolgono le parole, il vocabolario da sotto le mani. Però, appunto, quello che penso è che qualunque gesto di rottura di questo maleficio d'amore, come lo chiamano Sara Jaffe, che ci lega al lavoro, sia significativo e vada valorizzato. Da questo punto di vista l'altra lettura, appunto, che in realtà già in parte stavo cercando di restituire, che si può fare del libro di Francesca, è quella politica, analitico-politica, no? E penso che uno dei meriti del libro di Francesca sia proprio quello di, attraverso questa esperienza, aiutarci non solo a ripensare il lavoro, la categoria del lavoro, che cos'è il lavoro, qual è il senso del lavoro, eccetera, e quindi anche il nostro rapporto col lavoro nel momento in cui siamo in grado appunto di far risuonare le esperienze degli altri e nella nostra esperienza e viceversa, ma anche proprio di ripensare la categoria di classe lavoratrice, la categoria di working class. Nel senso, Francesca ovviamente, diciamo, i lavoratori e le lavoratrici di cui parla Francesca nel libro sono quelle che appunto attengono in parte alla care economy, a quello della riproduzione sociale, eccetera. Ma io sono molto affezionata a un tentativo che ha fatto David Graeber a un certo punto. C'è uno speech molto bello che lui ha fatto all'IPSA in un congresso europeo di hacker, Chaos Club, Chaos Communication Congress, appunto nel 2019, quindi un anno prima che morisse. E Graeber, quello che diceva, cioè lui utilizzava questa categoria di caring classes, no? Quindi che classi, una classe della cura sostanzialmente, sostenendo che in realtà la maggior parte del lavoro che facciamo quotidianamente, tutti, qualunque tipo di lavoro facciamo, non è tanto quella di produrre delle cose, ma è quella di mantenere le cose. di prenderci cura delle cose oltre che delle persone, e che quindi non è da questo punto di vista la produzione in senso stretto che è al centro delle nostre attività, bensì appunto quella del prendersi cura, che però appunto, come dicevamo, il rischio, la paura che io vedo è che noi non riusciamo a sottrarre questa capacità di cura a questo capitalismo cannibale. Però penso anche contemporaneamente che questo sia il terreno comune sul quale costruire delle convergenze. Questo è davvero un terreno comune sul quale costruire delle convergenze, e per farlo, è chiaro, per superare questa paura e per riuscire a costruire dei nuovi dispositivi di mobilitazione collettiva, appunto di forza, di azione collettiva, sicuramente c'è bisogno di tantissima immaginazione. Ecco, un libro che ho letto insieme a quello di Francesca è un libro di Sandro Busso, che è un altro sociologo dell'Università di Torino, che si chiama Lavorare Meno. Non implica il lavorare tutti, implica solo il lavorare meno. E il libro si conclude con un invito a recuperare il pensiero utopico, laddove l'utopia non è ciò che è irrealizzabile, bensì l'utopia è ciò che non è ancora. Perfetto. È ciò che appunto non è ancora realizzato. E quindi quando, come centro di ricerca Archivio Autonomo, Transfemminista Queer Alessandro Zino, di cui faccio parte, avevamo scritto una postfazione a un libro di Jack Alderson che si chiama L'arte queer del fallimento, e proprio in quel momento emergeva il tema delle grandi dimissioni. Una delle cose che abbiamo scritto e che penso che abbia appunto ancora valore è che poi guardare le grandi dimissioni ci ha dato anche la possibilità di contemplare che cosa accadrebbe se ci dimettessimo tutte, no? Tutte insieme dall'economia eterosessuale, perché poi è l'eterosessualità come istituzione che tiene in piedi questo tipo di organizzazione sociale del lavoro, dai nostri ruoli di genere, dal lavoro di riproduzione non pagato, da tutti i nostri lavori precari, dall'università neoliberale e dalla valorizzazione aziendale. Quindi questa capacità di immaginare cosa accadrebbe se lo facessimo tutti e soprattutto insieme, credo che sia l'unico modo appunto per riuscire a praticare, a costruire delle alternative. Da questo punto di vista l'esperienza di CKN è un esempio molto significativo, credo. Io chiederei a Francesca di commentare un po' questi due interventi, perché hanno dato molti stimoli, anche per arricchire appunto la discussione, o gli spunti di una futura discussione. Credo che sia importante i due interventi in questo momento. Allora, io intervengo volentieri perché c'è un sacco di carne al fuoco e perché tutti gli elementi importanti comunque sono stati, molti elementi importanti sono stati messi insomma in evidenza. Partirei dal titolo e dal sottotitolo, visto che in effetti quello che secondo me era importante era anche togliere questo dibattito dagli ultimi due anni. Per me la domanda non è perché le persone lasciano, ma è perché siamo rimasti così a lungo nel luogo di lavoro. E questo rovesciamento, questo rovesciamento viene sempre dato per scontato, nel senso che viene dato per scontato, almeno da quando sono nata io, viene dato per scontato che la cosa normale sia andare a lavorare, ricevere uno stipendio nei casi in cui questo accade, e poi tutto il resto che non accade più, prendere una casa, fare una famiglia, eterosessuale, come diceva Bea, eccetera. Questo è quello che ci è stato detto che è normale. Questa cosa ha tolto la critica al lavoro per tanti anni, sicuramente insomma per un lungo tempo, però tutto quello che è accaduto dalla fine degli anni 70 in poi ha tolto le gambe a tutto questo modello, nel senso che ha tolto proprio le ragioni per rimanere nel luogo di lavoro. Allora, per me il tema delle grandi dimissioni non è un tema contingente legato a questi ultimi due anni post-pandemici, ma è il sintomo di qualche cosa di più profondo, cioè è il sintomo del fatto che tutti quegli strumenti di condizionamento che sono stati usati per farci credere che appunto fosse normale, come accade, penso c'era un articolo bellissimo su Ikea, che in un luogo in cui non c'è mai il sole, non tramonta mai, non c'è luce, c'è solo luce artificiale, è un eterno presente e si va lì in un eterno presente ogni giorno, ogni mese, ogni settimana, ogni anno, per sempre. Questa normalità alla fine, secondo me, è venuta a termine. Che non vuol dire che le dimissioni continueranno ad aumentare necessariamente, anche se secondo me è possibile, ma che l'affezione al lavoro, la normalità del lavoro secondo me è saltata. E questo per me era il punto di partenza, perché non solo appunto da un lato volevo dare profondità storica, però anche questo ci consente appunto di guardare a tutto quello che è stato fatto in termini appunto di condizionamento. Quando togliamo quel condizionamento torniamo anche a ripensare, o almeno a me tornava in mente l'inizio del Novecento, in cui era normale, o anche prima, le fughe dal lavoro erano normali, l'assenteismo era normale, l'insubordinazione era normale. Prima di un secolo fa, cioè un secolo fa, prima che fosse normale, introdotta la settimana di 8 giorni, di 5 giorni, 8 ore alla settimana, era normale che ci fosse un turnover enorme nei luoghi di lavoro, e questo non era in contraddizione con le lotte sul lavoro, questo era un sintomo del fatto che quello non era lavoro, era sfruttamento. È stato definito lavoro recentemente, ma è sempre stato sfruttamento. E quindi il fatto che venga spesso visto come contraddittorio, il fatto che ci sono fughe dal lavoro, dimissioni, assenteismo, l'altro giorno sentivo questo nuovo pezzo bellissimo che dice malattia, malattia, malattia, e sostanzialmente dice io non voglio lavorare più, per favore mettimi in malattia, però mettimi in malattia per sempre. Ecco, queste sono forme di insubordinazione che segnano il fatto che quelle bugie che hanno condizionato la nostra persistenza al lavoro un pochino sono venute meno. E sono venute meno per tante ragioni: salari erosi, tutele erose. Ford alla fine, un secolo fa, ha fatto delle cose, ha introdotto, ha reso normale la retribuzione diretta e indiretta riferita a salario, pensione, promozione, riconoscimento sul luogo di lavoro. Tutte queste cose sono già saltate. Sono già saltate e adesso le vediamo sgretolarsi. Quindi vediamo l'inizio, secondo me, di un processo che però ci riporta proprio ai momenti di crisi, ci riporta a rivedere il lavoro per quello che è. Il lavoro c'è stato presentato come un destino, ma non è un destino, perché poi torniamo alla domanda che poneva Bea alla fine, che secondo me è la domanda: ma perché lavoriamo? Cioè, nel senso, perché? Perché io lo posso capire nell'epoca fordista in cui mancava tutto, lo posso capire, c'era la scarsità, bisognava produrre tutto, non c'era niente. Dopo guerra, parlo dell'Occidente in questo caso, anche se poi la cosa bella delle grandi dimissioni è che se andiamo a guardare i dati sull'India, se andiamo a guardare i dati sulla Cina, se andiamo a guardare i dati sul Sud America, cioè sono effettivamente un fenomeno planetario. Perché lavoriamo, esatto, c'è anche un senso del processo produttivo che è venuto meno, perché non siamo più in un contesto di scarsità, non siamo più in un contesto come quello di 100 anni fa. Keynes diceva tra 100 anni potremo tutti lavorare meno perché verrà meno la scarsità. È venuta meno la scarsità, c'è solo una gigantesca, straordinaria, senza precedenti diseguaglianza, però la nostra vita è ancora agganciata al reddito, ma i lavori è ancora agganciata al reddito da lavoro, che sia autonomo, che sia dipendente, quindi siamo costretti a farlo. Ma che senso ha dal punto di vista sociale? Perché adesso non è più scarso quello che ci serve, è malissimo distribuito, ma sono scarse le risorse che consentono a questo sistema di continuare a produrre con l'intensità che produce, che poi non è finalizzata alla riproduzione sociale, ma è finalizzata alla crescita, dove per crescita noi intendiamo fatturato e profitto, che è perfettamente in contraddizione con la riproduzione individuale e sociale, perché più è la tendenza al fatturato, ma questo lo dicono le lavoratrici e i lavoratori, più è l'ossessione per il fatturato, più ai datori di lavoro non interessa nemmeno se siamo vivi o morti. E questo è uno dei grimaldelli, se vogliamo, di questo sciopero generale non dichiarato. Però vado al secondo punto, che è quello del nuovo rifiuto del lavoro, E a me, io ho riletto negli ultimi mesi quel libricino stupendo di Lazzarato, Duchamp è il rifiuto del lavoro, sono introvabile, è un libricino così, però magari c'è ancora in inglese da qualche parte, in cui Lazzarato opponeva nel parlare di Marcel Duchamp e quindi anche del fatto che Duchamp, a me è rimasta nella testa quando Duchamp dice ok, non vuoi essere definito in questo modo, non vuoi essere definito un artista, non vuoi essere chiamato per nome, ma allora come ti dobbiamo definire? E lui dice una persona che respira, chiamatemi qualcuno che respira, non sono qualcuno che fa cose, sono qualcuno che dice viviamo. Però Lazzarato in questo libricino fa un'altra cosa interessante, qui magari, cioè dice il rifiuto del lavoro ai nostri tempi, qui torniamo agli anni 70, era un figlio di un processo organizzativo nel quale collettivamente vedevamo la possibilità di abolire il lavoro perché non ce ne sarebbe più stato bisogno. Però Lazzarato dice anche questa però era una postura politica ed era una postura teorica, non c'era un rifiuto del lavoro antropologico. Laddove c'era un rifiuto del lavoro antropologico, dice Lazzarato, era nelle donne, perché le donne invece rifiutavano il lavoro, non è che serviva la teoria, le donne a un certo punto smettono di identificarsi con quel ruolo sociale che veniva presentato come il loro destino. E a me sembra, io ho voluto dire nuovo rifiuto del lavoro per due ragioni, primo perché era troppo forte la differenza rispetto agli anni 70, il rapporto di forza è opposto e quindi il rifiuto del lavoro non è più quella forza collettiva che dice noi lo aboliremo, è proprio quella fuga individuale che dice non mi ammazzerete, che è radicalmente diverso. E quindi nuovo perché il rapporto di forza è inverso, e nuovo però in questa novità, secondo me la parte bella di questa novità è che non è più, non è un costrutto teorico, c'è del bene e del male in questa cosa, perché non è figlio di una mobilitazione collettiva, c'è prima il rifiuto e poi spesso l'elaborazione politica, questa magari viene dopo. In questo senso una delle critiche per esempio che riceve, diciamo, il tema, non il libro in sé, ma proprio il tema, è che perché dobbiamo parlare dal punto di vista individuale? Però qui la brutta notizia è che l'epoca è così, cioè non è che noi la vogliamo così, l'epoca è così, l'epoca ci ha polverizzate, nello stesso luogo di lavoro c'è la bellissima testimonianza di Viola che chiude il libro e che è emozionante per tante ragioni, perché Viola lavorava nel settore culturale con altre 20 persone, ciascuna contrattualizzata in modo diverso, lei da lavoratrice dipendente, altre autonome, e dice diverse cose che sono folgoranti, una delle quali è ai lavoratori dipendenti veniva chiesto di essere autonomi e quindi di portare un bottino extra a casa, e ai lavoratori autonomi veniva richiesto di comportarsi come quelli dipendenti. E questo è un disciplinamento assoluto che viene creato nei luoghi di lavoro, e chi poi si rifiuta dice sei tu che sei sbagliata, sei tu che non ci stai dando abbastanza. Quindi la polverizzazione c'è a prescindere, diciamo, dalla nostra volontà, ma la buona notizia è che pur in questa polverizzazione che ci porta da una parte precisa, perché il decreto Meloni del 1° maggio e anche i tentativi appunto di intervenire sulle dimissioni togliendo, insomma, i dibattiti a livello internazionale, in Italia hanno riformato il reddito di cittadinanza in senso restrittivo, però c'è un dibattito sulla NASPI, perché comunque è troppa libertà che viene data anche a chi viene licenziato. Insomma, ci sono dei tentativi di erodere anche quei microscopici cuscinetti sociali che consentono di non lavorare. E qui il tema è che se tutto il mondo sta andando in una questione, in una direzione coercitiva, non a caso siamo comunque in una congiuntura di estrema destra, e chi si mette la destra è coercitivo veramente, non farlo per finta, che ci sia una spontanea, capillare, puntiforme resistenza individuale, forse la parola resistenza è troppo forte, però io continuo a parlare con persone che si sono dimesse e vengono da me e mi dicono alcune dei miei ex dipendenti hanno fatto causa, io in quel momento non me la sentivo perché ero completamente esausta, però ora nel mio nuovo luogo di lavoro io so benissimo quali sono i miei diritti e sono diventata un punto di riferimento per. Oppure ci sono ex sindacalisti che lavoravano in un certo luogo e che non ne potevano più né di lavorare né di essere sindacalisti. Le storie sono variegate e sono tutte diverse, come è giusto che sia, però questa cosa sta creando una discussione che è ovunque, perché per quanto provino a farla tacere è effettivamente ovunque. Allora, secondo me appunto questo libro alla fine voleva essere uno strumento, cioè voleva essere uno strumento proprio di discussione, e voleva essere uno strumento che è ben consapevole di essere in un contesto di un rapporto di forza completamente avverso. E volevo citare un istante anche Silvio, uno dei due, delle due persone che ha chiesto che non venisse cambiato il loro nome, l'altra è Michela, e li cito perché sono all'inizio, quindi sono nel capitolo della sanità, che è quello con cui io ho iniziato. Io non volevo, mi sono dovuta attenere al certo. Il certo in termini di dati è poco in Italia, perché i dati, quando sono precari, creano un'invisibilità. La precarietà e la precarietà dei dati creano un'invisibilità in situazioni molto diffuse. E però appunto i dati certi erano quelli della sanità, della grande distribuzione, della ristorazione, delle donne in molti casi. E quello di Silvio per me è stato un caso, e della sanità in generale, è stato un caso comunque atroce, nel senso che i livelli, Silvio è quello che arrivava in ospedale e diceva avevo i conati di vomito, poi faceva la lista delle sue patologie, diceva disturbi gastrointestinali, aumento del consumo di tabacco, una certa sindrome depressiva, perché comunque eravamo diventati degli automi. E quindi da medico che faceva la lista delle sue patologie, per me era un po' il simbolo di queste, quel simbolo di persone che sono così esauste, che non vogliono cambiare il mondo, ma cercano un processo di sottrazione, perché questo lavoro ormai porta alla nausea, ma che appena possiamo un po' ricaricare le energie, o banalmente appena possiamo anche dirci che non è una questione individuale, ma è la bella norma del mondo del lavoro contemporaneo, magari insieme proviamo a rispondere ad alcuni temi, cioè a cosa vogliamo che il lavoro sia oggi, perché può essere in molti modi diversi, può essere banalmente tutelato, può essere banalmente ridotto in termini di lunghezza settimanale, di orario. Che in un paese come l'Italia ci siano 5 milioni di disoccupati scoraggiati e poi ci siano milioni di persone esaurite perché lavorano troppo. Lavorare meno, lavorare tutti, comunque resta una cosa sensata. Ma poi, e forse Valerio, anticipo Valerio che su questo mi parlava all'inizio, ma poi c'è anche di chiederci a che cosa serve veramente il lavoro oggi, perché i bisogni della società sono cambiati, il bisogno primario della società, ciò che chiede la società, è cura, è istruzione, tutto ciò che sta venendo completamente tagliato. E allora appunto ripensare il lavoro significa anche pensare a che cosa vogliamo produrre, a che cosa vogliamo fare, a che cosa serve alla società che facciamo, e tutto il resto invece ha bisogno di un dibattito, ha bisogno di forme di sovversione, ha bisogno di forme di organizzazione, perché solo in quel modo lì, in un'epoca così difficile, possiamo provare a rigirare la direzione suicida in cui sta muovendo il nostro mondo. Allora, minimamente noi ci dobbiamo organizzare, non possiamo sottrarci a quello che avevamo previsto per la serata. E per noi questo appuntamento con Francesca è importantissimo, e abbiamo deciso di metterlo insieme a un altro appuntamento altrettanto importante, che è quello di un'iniziativa a sostegno del progetto dei lavoratori e lavoratrici della GKN, che diciamo è il passo successivo a un percorso di lotta straordinario che ha permesso a tanti di noi di rinteressarsi ai temi sociali, politici, a confrontarci con altri, a pensare che non siamo assolutamente autosufficienti, non possiamo essere autosufficienti rispetto a quello che avviene nella società. La GKN ha avuto quei 400 lavoratori, questa forza straordinaria di porre questioni ambientali, di dialogare con i nuovi movimenti giovanili ambientalisti, e ha avuto il coraggio, perché è una scommessa notevole, di dire ce la possiamo fare di gestire la fabbrica senza i padroni, partendo da una questione molto semplice. Normalmente in Italia, quando una fabbrica chiude, i lavoratori stanno dei mesi davanti ai cancelli della fabbrica, e quando si arriva a un risultato al termine di questa mobilitazione, di questa lotta, per metà dei lavoratori ci sono gli ammortizzatori sociali, se va bene, per altri c'è un avviamento all'uscita dalla fabbrica, quelli che restano, i pochi che restano, spesso succede che la metà possano restare, lavorano in due settori che sosteneva prima. E quindi questo viene a volte rappresentato come un risultato positivo, perché comunque è meglio salvaguardare i posti di lavoro per un numero di lavoratori che per nessuno. Detto questo, c'è una legge in Italia, la legge Marcora, che permette di finanziare fabbriche dismesse, e ha permesso nel corso di questi anni a degli imprenditori che poi erano dei banditi, come nel caso del Cicapagna, di avere una fabbrica gratis, poi senza dichiarare in maniera chiara quello che viene fatto, senza dare le garanzie chiare ai lavoratori che restano. I lavoratori di Cicapagna hanno detto vogliamo gestirla noi la legge Marcora. Presentiamo un piano industriale che tenga conto del fatto che i segnassi per le automobili non li potremo più fare, anche se siamo capaci di farli, perché sono dannosi rispetto alla società, e poi non avrebbero, per quanto ci riguarda, uno spazio di tipo commerciale. Ci rapportiamo a nuove produzioni legate all'ambientale, al discorso dei pannelli fotovoltaici, al discorso dei cargo bike, per dare una prospettiva seria di lavoro difficilissima ai lavoratori. Anche perché purtroppo, essendo tutti giovani, i lavoratori e lavoratrici della GKN non potevano avere i prepensionamenti, che era uno degli ammortizzatori e delle vie di fuga che di solito vengono utilizzati in quei casi, nessuno poteva andare in pensione prima. Quindi hanno mantenuto questo ragionamento fino in fondo, con grandi difficoltà, perché sono mesi che non vengono pagati, perché il nuovo industriale interessato non aveva nemmeno attivato i meccanismi di richiesta della cassa integrazione. Quindi c'è una necessità di sostenere quei lavoratori, perché sono ancora davanti, e c'è una seconda necessità di sostenere anche il progetto. Quindi per questo abbiamo deciso di dedicare la seconda parte della serata a una cena di raccolta fondi per la GKN. E io voglio anche terminare, insomma, poi se qualcuno vuole intervenire, un po' di spazio delle domande, eccetera, però devo terminare, perché le ultime parole del libro di Francesca riguardano appunto la GKN, cioè un libro che parla molto spesso di sottrazione, però alla fine, perché Francesca c'è stata all'interno di questa lotta, Francesca è stata una delle protagoniste del Festival della Letteratura Working Class, appunto qualche mese fa, che si è tenuto dentro il luogo più adatto per fare un festival sulla letteratura working class, finisce proprio utilizzando le parole che spesso il collettivo di fabbrica della GKN utilizza: il cielo è l'unico limite, tutto il resto è possibile insieme. Se ci sono domande, facciamo nel volo e dopo si va a mangiare, dai, prego. Per consenso di questi volevo chiederti se ci... Buonasera a tutti, io non ho ancora letto il libro, magari c'è scritto, non lo so, ma volevo chiederti se ci sono delle differenze tra questo fenomeno, grandi dimissioni in Italia, e nel resto dei paesi dove si è verificato questo fenomeno. Niente, quando sia tu, anche quando Bea, parlavate delle cose che vengono rifiutate, io ho pensato a quanto un sacco di cose che avete detto possano essere applicate anche al rifiuto della militanza. E anche adesso questa è una provocazione chiaramente, il rifiuto della militanza, che comportamenti possiamo individuare come rifiuto della militanza? Quando dici sciopero non dichiarato, a me la cosa bella che mi viene da prendere è proprio la critica, che in quello sciopero non dichiarato c'è una critica alle strutture che dovrebbero dichiararlo, c'è una critica ai modelli di militanza, c'è una critica all'elaborazione politica e all'idea di soggettività che sta dietro. Grazie. Altre due o tre domande, poi dopo Francesca risponde. Ma io volevo dire alcune cose. Noi dicevamo lavoro zero a reddito intero, quando dicevamo rifiuto del lavoro, perché già è una frase, vuol dire che mi manda male, nel senso che l'automazione è arrivata a un livello talmente alto di produttività che, come dice Francesca, c'è un esubero di merci, di prodotti, però la fase che stiamo vivendo va analizzata secondo me anche da un punto di vista di quello che ci trasmettono nei mass media, perché ci sono dei ricatti finanziari tremendi, continuamente parlano di prodotto interno lordo che sta scemando, di inflazione per cui noi poi la paghiamo con l'aumento dei prezzi. Quindi voglio dire, c'è una confusione proprio anche da un punto di vista teorico e teorico economico, per cui la gente, e poi ci sono tutte le nuove schiavitù, perché con l'arrivo dei migranti, voglio dire, i lavori al sud, ovunque si parla proprio di nuove schiavitù, perché vivono col caporalato, quindi addio sindacato, sindacato è da un testo che è stato cancellato dai posti di lavoro. Quindi la fase è talmente intricata, secondo me, che se non vediamo tutte le sfaccettature di tutte queste capacità che ha la società capitalistica di ristrutturarsi in questa fase, noi saremo sempre perdenti. Potremmo parlare di disperazione, di lavoro, di ricatti sul posto di lavoro, che è vero, no? Che tutta la cura, la medicalizzazione ormai fa parte della vita dei lavoratori, stanno continuamente rivedendo i pensionamenti. Quante riforme hanno già fatto anche sui pensionamenti, la legge Fornero, adesso c'è Salvini, quota 100, quindi si tratta, non la prenderemo mai noi la pensione. Io volevo puntualizzare tutte queste cose, che gli obiettivi li abbiamo, lavoro vero, reddito intero, salario minimo, se vuoi anche il reddito di cittadinanza, è stato in qualche modo un aiuto, no, per tutte le classi disagiate in questa fase, però non basta, perché già il governo è di un certo tipo, abbiamo una guerra nel cuore dell'Europa, e quindi tutta anche la produzione sta riconvertendo in produzione di armi, cioè noi stiamo finanziando e cambiando la produzione in produzione di armi, per cui ecco cioè, secondo me dibattere molto su queste problematiche, unirci fino in fondo, appoggiare qualsiasi forma di lotta a qualsiasi livello che si manifesta e non demordere, come hanno fatto i lavoratori del CKM. No, non sentiamo. L'unica cosa che non fischi di venire dietro. Ma è molto interessante, volevo farti una domanda provocatoria anche perché sono sulla linea di Gianluca. Nell'ultimo docufilm di FRD, Elon Musk dice più o meno, dall'altra parte, la stessa cosa, non c'è più bisogno di lavorare, perché fra un po' non avremo più bisogno appunto di lavorare con l'automazione, tutta una serie di cose, e anche a Rari. cioè la linea mascarare è molto pericolosa. Altre domande? Ancora? Presto, perché cioè, prego, prego, facciamo tutte. La mia non è una domanda, vorrei solo aggiungere due paroline che secondo me insomma possono essere abbinate al discorso grandi dimissioni, su quale vale la pena di ragionare. Una è espropri e l'altra è sabotaggio, e secondo me queste sono due piccole armi che forse è il momento di ritirare fuori, di come dire, di affinare, di parlarne. Non è una domanda, è un'affermazione, è un contributo ricollegato a quello che ha detto Francesca e te. No, io non ho letto il libro, quindi nel senso queste interrogazioni che ho rispetto al tema, io sono uno che ha praticato il più possibile il più del lavoro, ho cercato di lavorare il meno possibile, sono andato a vivere in Francia anche per questo, e tutto bene. Parlando però anche con amici e amiche, persone che si mettono, senza per questo aver fatto una ricerca sulla questione, però mi è salita una paura fottuta di una cosa, che questa fase non sia invece anche un momento in cui un tot di persone lasciano il lavoro per poi ricollocarsi, cioè in vari ingressi in formazione, cioè io stesso adesso per temporeggiare con lo chômage, no, sto pianificando formazioni, però nella testa di qualcuno c'è chiaramente la logica di ricollocarsi in termini di autoimpresa, no? Adesso basta, mi metto in proprio, e dicendo. Quindi riflettendo anche, no, sulla, no, la nuova ragione del mondo, no? quanto il neoliberismo ci è entrato nelle ossa, mi è sentita questa ansia di rispetto a dire questo, però non è che ci in realtà apre a una nuova fase in cui ciascuno di noi si ricolloca sul mercato individualmente a seguito del momento in cui abbiamo lavorato sulle nostre competenze, siamo cresciuti. Anch'io volevo aggiungere una cosa. Prego, stai dietro la cassa. Quanto Francesca incide il passaggio, tu prima dicevi anche in quarto di copertina, non ho letto ancora il libro, però in quarto di copertina c'era scritto, l'hai detto anche tu, l'hai confermato, come il lavoro per tanti anni è stato identificato come emancipazione, strutturazione dell'identità, ok? Però già dagli anni 70 immagino tutto il discorso del passaggio dal bisogno al desiderio, la strutturazione dell'identità non più attraverso il lavoro ma attraverso il consumo, e adesso nell'era dei social dell'apparire, ok? Quanto questo passaggio, no, dell'identità, di come strutturare la propria identità, di come essere, incide sulla grande dimissione, poi come, collegandomi a lui, le persone che si dimettono da un lavoro magari poco retribuito, che non piace, che come poi pensano di vivere, perché questa è la grande domanda che mi pongo anche io, che lavoro in sanità, e che ovviamente in sanità ci sono tanti lavori, c'è una stratificazione sociale del lavoro in sanità, non è che sono tutti uguali in sanità, non siamo tutti uguali in sanità, c'è poi un discorso che approfondiremo sicuramente con l'amica e collega Ilaria sulla parte del lavoro sanitario, perché poi all'interno della sanità ci sono tante tante situazioni che andrebbero affrontate. E prima o poi sovvolgo questi due argomenti perché sennò non riusciamo più, però prima o poi un discorso sul Covid e poi anche su come si fa sindacato all'interno della sanità andrebbe approfondito. Va bene, risponde Francesca, poi dopo abbiamo la seconda parte della serata. Allora, provo telegraficamente, prendo la scusa per la questione della sanità, le domande sull'autoimprenditoria, perché alla fine un po' magari vanno anche in alcuni pezzi, vanno nella stessa direzione, nel senso che nella sanità, oltre ai tassi elevatissimi di burnout, i turni massacranti, la scarsità, gli organici ridotti all'osso, le dimissioni si mostrano essere incrementali, nel senso che chi resta poi deve fare anche il lavoro di chi è andato e quindi aumentano, cioè arriva un punto di crisi dopo il quale diventano irreversibili, però c'è questo elemento dell'abbandono del lavoro salariato per il lavoro autonomo, i cosiddetti gettonisti. Allora lì in generale, per rispondere in generale alle domande, secondo me il tema delle dimissioni è contraddittorio, è spurio, è pieno di sfumature reazionarie o il contrario, cioè non le possiamo separare, c'è tutto. Se prendessimo questo pezzo della sanità per parlare, per guardare, come dire, allo scivolamento dal lavoro subordinato al lavoro autonomo, in questo caso specifico, perché poi tutti i settori non sono uguali, nel settore della sanità questo scivolamento, secondo me, io nel libro lo interpreto come un incentivo ad andarsene, cioè che la sanità rende di più essere lavoratrici e lavoratori autonomi rispetto che più salariati dipendenti, anche perché nel processo di smantellamento che sta avvenendo, di privatizzazione, di sdoganamento delle assicurazioni private, conviene incentivare un tipo di esito di questo tipo. Il tema della sanità nel libro, io provo, mi servo di testimonianze per dare una, è il capitolo più lungo poi forse, per provare a dare una fotografia di quello che sta accadendo, per quanto mi riguarda, per quanto quello che ho capito io nella sanità, il problema è stato anche che per quanto medici, infermieri, operatori sociosanitari siano comunque stati, abbiano fatto tutto il possibile per sopperire da un lato alle esigenze di cura, dall'altro anche alle risposte, come dire, per autodifendersi, per porre il problema pubblicamente, a me sembra che qui siamo stati mancanti noi. Cioè, se la sanità è una lotta essenziale, questa lotta essenziale l'ha fatta molto chi lavora nella sanità, noi non l'abbiamo fatta. Questo secondo me è un problema, perché come diceva la citazione che citava anche Luca, il sistema sanitario pubblico continuerà a esistere solo fino a che lo difenderemo, non di più, ma difenderemo non è dovere di chi ci lavora, è dovere nostro, è dovere di tutti, e secondo me questo qui è un punto forte, anche perché la sanità è un settore che stanno smantellando, in altri settori la ristorazione c'è semplicemente un altissimo tasso di sfruttamento per il fatto che comunque erosa la struttura produttiva, ci sono stati bar e ristoranti che sono diventati quasi l'unico impiego possibile, penso al centro sud, a reti deserto produttivo. Però per essere un po' veloce, quindi imprenditoria, Elon Musk, sì, voglio dire, loro vogliono usare le macchine per togliersi di dosso questo grande problema che è la vita umana, che vuole dormire, che vuole sognare, che vuole andare nel tramonto, che non vuole lavorare. E appena il numero di dimissioni nei magazzini Amazon è diventato tale da mettere in pericolo la continuità produttiva, hanno investito in tecnologia, hanno investito in tecnologie non per liberare il nostro tempo, ma per liberare loro stessi dal problema dell'indisciplina di chi lavora. Quindi la questione tecnologica è scivolosa anche quella. E si potrebbe aprire un dibattito, però il tema è anche quello. Dovrebbe essere direzionato in termini di ciò che ci serve, perché altrimenti se il tema è sostituire la forza lavoro per tagliare gli organici, tagliare i salari, alla fine vivremo tutti quanti insomma, in un contesto di profonde diseguaglianze e di tragica povertà. C'è anche, insomma, si potrebbe girare in altro modo, ma il tema qui di fondo è sempre la porta di forza. L'altro giorno stavo ascoltando per l'ultima sulle altre domande sull'ego, stavo ascoltando Miguel Benazzaiate, il canalista che aveva scritto quel libro bellissimo L'epoca delle passioni tristi, e lui ha detto gli anni che ci precedono li possiamo dividere in tre epoche diverse, le prime due non me le ricordo più, la terza è quella del caos, viviamo in un'epoca di caos, diceva, e quindi il caos è anche alla fine un'opportunità, è indubbio che siamo in un momento di caos. Vengo alla domanda di Luca, perché alla fine ci dice qualche cosa di buono in questo caos, cioè quando parliamo di sciopero generale non dichiarato parliamo anche di un bisogno di insubordinazione, di trasformazione che anticipa quello che magari le strutture sindacali avrebbero dovuto fare ma non hanno fatto, e in questa anticipazione c'è tutta l'intelligenza che ci serve, c'è in erba, c'è spuria, c'è contraddittoria, però c'è. Io resto la buona notizia che c'è e che comunque la dobbiamo lavorare.